sono le 7 spaccate, 7:00 ovviamente del mattino. E vi parla è l'Ariele, qui dalla cella frigorifera di Rock FM, sita in via Locatelli 1, 20124 Milano, pronto a condurre anche stamani l'ennesimo appuntamento in diretta targato Pane e Burro e Rock and Roll. Puntata numero 4, se la contiamo dalla nuova stagione, o puntata 82. Quando poi arriveremo alla terza stagione daremo tre numeri. Pane, burro e rock and roll. Che poi magari uno se li gioca, no? La tua colazione rock. Potrebbe essere una buona idea. Pane, burro e rock and roll. L'energia di pane, burro e rock and roll per traghettarvi fino alle 9 del mattino. Se cerchi una radio che fa roccheggiare, ecco l'hai trovata, non la cambiare. Pensa che fortuna l'averci incontrato. Tracu, tracu. Ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM. Perché conviene, perché fa bene. Pane, burro e rock and roll, la colazione che dà assuefazione. Trasmissione nella quale sono importantissimi i tormentoni, e riprendendo con la nuova stagione dovremmo cercare di inventarcene di nuovo. Come va là fuori? Siete già pronti a affrontare la giornata? Noi siamo qui apposta, al vostro completo servizio, per darvi quella spintarella che vi manca. Come al solito, da buon egocentrico, mi sono presentato solo io, mentre giustamente un saluto, un abbraccio affettuoso, quasi fraterno, va al mio regista Spadino, mago del grosso mixer di Rock FM, e basta, e al dottor Roberto Friccantoni, già voce degli Schiantos, già intellettuale di punta di una certa controcultura italiana. Le piace come... Anche lui ci terrà compagnia quest'oggi per quanto riguarda il reparto demenza. Mentre per quanto riguarda il reparto musica, come al solito, due ore ricche di spinta. Quella che serve per affrontare al meglio una nuova giornata. Rigorosamente dal vivo, la mitica formazione denominata The Blues Brothers. Iniziate a muovere il piedino. Questa è Soul Man. Buona giornata, amici. Coming to ya, yeah. On a dusty road. Good loving, I got a truckload. And when you get it, you got something. So don't worry, cause I'm coming. I'm a soul man. I'm a soul man. I'm a soul man. I'm a soul man. Got what I got the hard way. And I'll make better each and every day. So I'm a soul man. I'm a soul man. I'm a soul man. geniata coppia Belushi e Aykroyd alla voce e una sezione fiati delle migliori della storia della musica mondiale sotto il nome di The Blues Brother. Grande inizio questa mattina di Pane, Burro e Rock and Roll con questa Soul Man. Tra l'altro vaneggiavo a quest'ora del mattino, vaneggio, mi sembra doveroso, mi sembra quasi da contratto. L'ultima esibizione tenuta con la mia... Eccoli là! Ci sono gli uomini che fanno jogging! Già a quest'ora del mattino! Bravi! Scusate, Radio Verità, Radio Reality, io ho una finestra che getta il mio sguardo. Sentite che poetico stamattina. Su un pezzo di Piazza della Repubblica. Tra l'altro sono anni che dico che questa finestra affaccia su Piazza della Repubblica, cosa che tecnicamente... toponomasticamente è sbagliata, perché in realtà non è la piazza, questa è già la via che va verso Centrale. Se non fosse che sono così ignorante da non ricordarmi come si chiama la via e quindi forfettizzo dicendo Piazza della Repubblica. Vabbè, c'erano due che facevano jogging, amen. Ma non quello che cercavamo la scorsa stagione, fa niente. Dicevo, ho avuto il piacere di conoscere una formazione veneta con un chitarrista folle, tra l'altro un chitarrista bravissimo, che come side project della sua formazione ogni tanto fanno delle feste suonando solo musica dei Blues Brothers e mi confessavano come la cosa fosse veramente divertentissima. Mi hanno anche invitato a partecipare a una prossima esibizione, vi farò sapere. Io ho accettato solo se potevo fare la parte di Belushi, mi hanno detto di sì, quindi prossimamente l'Ariele Belushi da qualche parte in giro per le bettole della penisola. Intanto permettetemi di invitarvi a questa colazione mattutina grazie a un numero di SMS che come ogni santissimo giorno risponde al 335-100-7777. Cosa ci interessa? Beh, ci interessa sapere a che gruppo d'ascolto appartenete, cosa state combinando a quest'ora della giornata e poi una domanda fondamentale: ma gli affai o gli affai? The Pesh Mode per quelli che gna fanno. Personal Jesus, beh, credo possa aiutare. Sì, può aiutare. Jesus, someone to be oppressed. dalla Jesus nella strepitosa versione di Depeche Mode. Ragazzacci che se la sono anche inventata questa personal Jesus. Sempre l'Ariele su Pane, Burro e Rock and Roll. Intravedo negli studi Frick Antoni con la nostra redazione. Twist potrebbe andare a fare l'almanacco. Sei pronto? Facciamo più tardi. Allora io faccio una dichiarazione di intenti, anzi una dichiarazione d'amore ai nostri radioascoltatori in questa nuova stagione di Pane, Burro e Rock and Roll. Nelle nostre riunioni di redazione abbiamo voluto puntare alto, abbiamo deciso in un piano d'attacco che potrebbe chiamarsi Davide contro Golia. Questa è l'idea, è il nome in codice della missione. Sarà una gara d'ascolti. Vorremmo diventare il programma mattutino più ascoltato dell'etere, pur essendo una radio piccola. Ma noi il limite lo mettiamo là, poi che ce frega, se non ci arriviamo fa niente, tanto eravamo piccoli, non era colpa nostra. Per far questo abbiamo bisogno di voi, perché sì, per spargere la voce non abbiamo altri mezzi. Noi ce la mettiamo tutta, ma voi dovete aiutarci. Spargere la voce al mattino. Se volete affrontare la giornata in un giusto modo, bisogna ascoltare Rock FM, eh? Hai capito quanto sono romantico? A dichiarare ai radioascoltatori e alle radioascoltatrici che fondamentalmente tutto gira intorno a voi. Senti che dolce, Spadino, senti che dolce, mamma! Il flautino di King Crimson. Viene la pelle d'oca appena parte quella batteria lì a me. Non so com'è quell'effetto lì. A tutti voi già nel traffico, a tutti voi che state vestendo i bambini per andare all'asilo. Vanno già all'asilo i bambini al 6 di settembre? Penso di sì. A tutti voi che state affrontando la giornata blindando la vostra radio sulle frequenze di Rock FM, buona giornata. Pane, burro e rock and roll. Ed è subito amore. Era tanto che volevo dirlo. We'll be right back. ci siamo, siamo giunti a un giovedì, al primo giovedì di Pane, Burro e Rock and Roll. Io già ne ho abbastanza di lei, caro Frick. E me lo dice così. Ma guarda, inizio trasmissione. Ah, così, senza remissione, proprio. Ma lei vuole abbattermi? No, lei vorrei vuole fare rissa, a dir la verità. Ma non prima di essermi gustato un almanacco del giorno che fu, se le va. Va bene, le no, concedo. È remissivo questa stagione. Assolutamente no, non ci penso nemmeno. E allora inizio io, grazie Spadino per la base che ci aiuta. Inizio con un accadimento del 3761 avanti Cristo. Lei non l'ha mai fatta così lontana, caro Frick. Cos'è? Una canzone nuova? La sto boicottando. No, non mi boicotti. È nel 3761 avanti Cristo che il calendario ebraico pone il giorno zero. Quindi sono nel 5000 loro, e lui no. E le servo subito. Mi serva. Questo 6 settembre del 1915, dove abbiamo la presentazione del primo prototipo di carro armato che viene testato dall'esercito britannico per la prima volta. È il compleanno del carro armato. Brutta notizia, me ne dia un'altra migliore, per favore. Allora, passiamo al 1991, notizie più recente, il 6 settembre, spero questa le vada bene. Il nome San Pietroburgo viene ripristinato. Oh. Era il nome originale della seconda città della Russia. Viene ripristinato il nome di San Pietroburgo, che si era chiamato per un lungo periodo Leningrado, esattamente dal 1924 chissà perché, al 91. Più bello San Pietroburgo. San Pietroburgo è molto più bello, ma naturalmente si voleva rendere omaggio ad un padre della rivoluzione. Viva San Pietroburgo! Sempre viva San Pietroburgo! Adesso Gigi, per farsi perdonare, vi offro un bel caffè. Ale burro e rock and roll. Viva il caffè! È sicuro che è quello buono? Più lo mandi giù e più ti tira su. Io ti tiro, ti tiro.